Chiamare da fisso a mobile, che ci è sempre sembrata una delle combinazioni più costose, anzi non ci è sempre sembrata, lo è sempre stata, dal 1 luglio chiamare da casa ad un cellulare è meno caro, almeno per quanto riguarda le utenze di Telecom Italia. Per telefonare ad un cliente TIM in fascia oraria intera, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30, il prezzo passa da 13,36 centesimi al minuto a 11,40. Ancora più forte per esempio è il risparmio per le chiamate verso i cellulari di 3, che scendono da 18,52 centesimi al minuto in fascia intera a 13,44 e così via anche per le altre compagnie. Allora, Domenico, possiamo spiegare a cosa si deve questo abbassamento delle tariffe? Io ho anticipato già che si tratta di una riduzione delle cosiddette tariffe di terminazione, cioè? Sostanzialmente le tariffe di terminazione sono i soldi che il gestore dell'utente che effettua la chiamata deve pagare al gestore dell'utente che riceve la chiamata. Ora, per le utenze mobili praticamente erano particolarmente elevate, anche perché inizialmente per favorire la diffusione della telefonia mobile si riconosceva loro un certo numero di un guadagno di un certo peso perché venisse a svilupparsi questa nuova tecnologia. Ora i tempi sono evidentemente ampiamente maturi, perché anche la telefonia mobile è quasi un settore maturo, anche se nel giro di pochi anni, e quindi la GCOM con una serie di passaggi sta riducendo queste tariffe di terminazione. Quindi in sostanza questa è una decisione appunto dell'autorità garante delle comunicazioni. Tra l'altro mi risulta, Domenico, che in Italia queste tariffe di terminazione fossero un po' più alte rispetto al resto d'Europa. Molto spesso possiamo abbiamo anche togliere un po' perché erano esatto, molto più alte. Ecco, tristemente abbiamo sempre questi primati, anche qui insomma non è che ci distinguessimo in sostanza. No.